from the by lanes of Ontario East. Yo, yo, yo. Behold, Chuck D with TMC and Wild Wild Women. Yo, yo, yo. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. I'm at my girlfriend in a hotel. She looks sad, so I asked, are you okay? She said, sit your ass down, I wanna tell you some. New day, same bullshit. Where you coming from? Their eyes looking like the balls popping. Calm yourself, bro, I was just walking. We jump when they say crisscross your legs. Calling karma a bitch, cause she made you beg. I'm just traveling, rolling, glowing. I looked at the mirror, caught the driver drooling. Damn, wait a minute, what the hell you doing? I got booty, but this ride ain't amusement. End of the date, now it's time for the bill. 19.01 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sta per iniziare la nuova puntata di Likewise. Did the waiter just ask him my pin? Okay. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay. E questa è la nostra puntata numero 93, qua i numeroni siamo invecchiati, eh? Sì, ho letto di musica insieme con Donna Sonica e Pinklo, dai. Okay, doing okay, I'm doing okay, doing okay. I'm not sub say yeah, that you sub say yeah. Ungar trip way yeah, kam danda nahi hai. Wanna namasera, bandiya hai khas. Bola kampar, baad bani sa. Sangathan mein hamari itni shakti hai ki humse ab tumhari fatti hai. Voglio sempre arrivare a questo punto in cui cantano in indie, mi piace troppo. È bellissimo infatti. DMC, Wild Wild Women, Doing Okay, la nostra sigla di questa quarta stagione. Sì, neanche io mi sento tantissimo nelle cuffie, devo dire, spero che voi ci stiate sentendo. Come dicevamo, puntata numero 93, una puntata ricca non solo degli ascolti che vi proporremo come ogni settimana, ma anche appunto oggi c'è, a un certo punto apparirà, si sentirà un contributo di una compagna di concerti, ascolti e discussioni musicali, che ci spiegherà Chappell Roan tutto quello che pensavi di non dover sapere e invece dovevi saperlo. Esatto, infatti è stata anche una interessante scoperta, ma ne parleremo più tardi. 0649 1750 per chiamarci in diretta e farci squillini. Non so, forse è arrivato qualche squillino, se non ho sentito male. Grazie a tutti e bentrovati a Likewise. Se volete scriverci, likewise@ondarossa.info. Abbiamo un canale Telegram, likewise-trx. Se cercate i nostri podcast, li trovate sul sito della radio. Se li cercate in questi giorni, forse avete qualche problema. Proprio oggi, non tutto è 93 puntate, proprio mo dovete andare a cercare, esatto, i podcast, perché come sapete c'è Archive che insomma è un po' fermo in questo momento, e quindi insomma moltissimi ascolti non sono ancora disponibili, ma lo saranno presto. Esatto, non perdete la speranza. Io direi di partire velocissimissimamente, perché mi piacerebbe finire la scaletta, dire tutto quello che c'è da dire. Oggi ci sono tantissime cose interessanti, quindi partiamo. Cioè, i buoni propositi, questi sono i buoni propositi dell'autunno. Primo pezzo, loro si chiamano Las Nubes, Caminar Solas. Las Nubes, Caminar Solas, tratto dall'album Tormentas Malsanas, che è uscito lo scorso 14 giugno, se non ricordo male. Era finito nelle nostre playlist, poi diciamo abbiamo messo un po' da parte per far sentire altre cose ed è ricicciato fuori, come sì, spesso accade da queste parti. Diciamo che a prima dell'estate, a fine estate, ci siamo ritrovate con una playlist molto lunga di canzoni che avremmo voluto mettere, che poi non abbiamo fatto in tempo a mettere, di altri dischi che mentre sono usciti durante l'estate, di tutte poi le uscite che invece sono arrivate all'inizio di settembre e adesso all'inizio di ottobre, quindi è finito un po' a ruota, però vedi, l'ha trovato un posto. Sono quelle che ce la fanno. I dischi che ci piacciono li trovano sempre. È il secondo album di questa band, diciamo, che ha base a Miami, uscito per la Unhealthy Storms. Devo dire che è un album molto bello per i miei gusti, poco prevedibile. Sicuramente fanno pensare un po' alle Breeders, no? Come impostazione, diciamo, musicale, come arrangiamenti soprattutto, però appunto il passaggio anche tra l'inglese e lo spagnolo, il fatto che ci siano queste introduzioni o queste chiusure, come è successo nel pezzo che abbiamo scelto, magari più lente, cambi improvvisi di tempo, me l'hanno fatto veramente molto apprezzare, mi piacciono un sacco. E non è casuale, nel senso che il disco si chiama Tormentas Malsanas, cioè quindi tempeste in qualche modo malsane, e in realtà loro parlano molto di che cos'è l'estate a Miami, che ha due estremi, insomma, all'inizio, cioè prima c'è un sole, un caldo soffocante, magari un minuto dopo ci sono venti tempestosi e pioggia battente, e questa polarità, insomma, accompagna chi abita quella città e anche l'umore quindi delle persone. Loro dicono di resistere a tutto questo e quindi sì, il disco è un omaggio ironico alla realtà dell'estate di Miami, e è simile, insomma, quando una giornata da che serena diventa grigia, che un po' racconta anche questi cambi musicali di cui stava parlando Dona, cioè hanno anche un po' un riscontro su un pensiero più grande sulla musica, affronta le lotte comuni e non comuni, dalle difficoltà di creare una famiglia come musicista donna, e questo è un tema che in quest'anno c'è stato, insomma, abbiamo riscontrato anche in altre artiste, in interviste di altre artiste che abbiamo mandato a Likewise, e siamo contenti che qualcuna, nonostante denunci la fatica di farlo, stia riuscendo a fare musica e a, con qualche modo, a avere anche il desiderio di crescere qualcuno, quindi è bello anche questo. I dolori dell'invecchiare, senza una la depressione, il desiderio di lottare per la giustizia, insomma ci sono tanti temi dentro questo disco, quindi ve lo consigliamo, esploratelo. Pensate di stare a Miami, insomma, vedete un po' se funziona. E poi fateci sapere cosa ne pensate. 0649 1750, se volete contattarci mentre siamo qui in diretta. Il secondo pezzo della scaletta, lei si chiama Ola Gotland, Backseat Driver. No one likes an angry girl, no one likes a liar. No one likes a conversation walking on the wire. I don't know how we got here. Next thing I know, told a version of the truth and it got out of control. Guilt is like a bad apple running to the core. Backseat driver, this has gone too far. You've taken up enough space, now get out of my car. Cause there is only one way that this is gonna go. 90 miles an hour flying straight into the wall. Your earth. Ella Garland, Backseat Driver, tratto dall'album Everybody Needs a Hero, uscito lo scorso 4 ottobre per la New Friends Music. Art rock pop, insomma, che spesso passiamo da queste parti, come ci piace, con bei testi niente affatto scontati. Lei è una musicista e compositrice irlandese, appunto al suo secondo album, quindi anche in questo caso un secondo album per questa artista. Diciamo che lei aveva, ne avevamo già parlato, no? Era già passata da queste parti, tu che sei la nostra memoria storica. Non ho riguardato effettivamente lei, non ci ho pensato. Penso però che avessimo messo Why Am I Like This, che era appunto il singolo con cui era stata lanciata, che era anche il pezzo Women on the Internet, che era appunto anche il disco del 2021. Sì, che era stato usato anche come colonna sonora di una, diciamo, serie abbastanza queer e abbastanza di successo. E, che dire, ci piace molto questo disco, a me piace molto, molto divertente. Ci sono molti probabili tormentoni, sai, quelle cose che ti restano in testa per giorni, che le canticchi. Sì, devo dire che probabilmente lei ha affinato questa cosa di costruire, insomma, la canzone pop in qualche modo, ma non scontata e banale, dopo anni e anni, perché lei ha iniziato a suonare molto presto, quando aveva 14 anni, aveva addirittura un canale su uno dei posti che conosciamo, e ha pubblicato poi piano piano gli EP, però, cioè, è in giro dal 2012, mi sembra. E quindi è arrivata al suo disco di debutto nel 2021, quindi direi comunque una bella gavetta se l'è fatta. Esatto. Quindi arriva a questo secondo disco, non dico con le spalle larghe, ma probabilmente con molta molta consapevolezza, e forse anche questo è il segreto del successo, cioè, insomma, della piacevolezza del prodotto del disco. Potete sentirla e vederla in giro, anche mettere musica, insomma, su vari canali, quindi potete farvi anche un'idea delle anche altre vederla in Italia. Esatto, perché credo sia in tour novembre, ottobre? Tu no, da noi arriverà a marzo. Ah, è in marzo, tour, okay. Adesso in tour. Europa, okay. Ma arriverà a Milano a marzo, il 18 marzo, segnatevelo se vi potrebbe interessare. Questa è Radio Onda Rossa, questa è Likewise. Questa è sempre la diretta, sono le 19:14, lo confermiamo per questo, anche se l'orologio della radio non è sempre precisissimo, ma sì. Ma noi ci fidiamo, lo noi stesso, dobbiamo salutare chi ci ascolta in FM, chi ci ascolta in DAB, chi ci ascolta in streaming, chi ci ascolta con le radioline, col telefono, con la macchina, dove siete? Come state? Speriamo meglio, bene, bene. Speriamo che vi porti un po' di allegria, un po' di compagnia al nostro programma, e vi facciamo ascoltare una cosa abbastanza, diciamo, che ci è piaciuta molto nelle ultime settimane, quindi cercavamo il momento giusto per metterla, ed ecco che è arrivato. Lei si chiama Nala Sinifro, Continuum 8. Nala Sinifro, Continuum 8 è il pezzo che abbiamo scelto. Vedi da come ti sei rilassata subito. Bellissimo, bellissimo album dal titolo Endlessness per la Warp Records, uscito anche in questo caso secondo album per questa musicista, compositrice belga martinicana, che però appunto si è spostata, come molto spesso accade per chi diciamo sperimenta il jazz, con tutto quello che viene in mente, con tutte le sonorità che possono venire in mente, come in questo caso dalle parti di Londra. E non è un caso anche che in questo album compaiono altri nomi noti a Likewise, e non solo a Likewise, per esempio Nuvia Garcia o Sheila Morris Gray, che magari è meno nota, ma insomma è una trombettista fondatrice delle Coco Rocco. C'è anche l'ensemble di 21 archi che ha suonato nel disco di con la Gibbons. Esatto, quindi insomma chiaramente spostandosi verso Londra, girando intorno all'Ezra Collective, quindi insomma ha un ambiente, ha un gruppo di musiciste e musicisti che insomma condividono lo stesso modo di pensare al jazz contemporaneo. Chiaramente poi ci si scambia suoni, ci si scambia musiciste, eccetera eccetera. È un bellissimo album, appunto tutti i pezzi hanno questo titolo, Continuum 1, 2, 3, eccetera. Sì, non eccetera. So se vi ricordate, perché noi l'abbiamo ascoltata col suo debutto, che era Space 1.8 del 2021, e anche quello aveva, e sono come se fossero delle piccole suite, anche quello aveva tutti i pezzi numerati, quindi lei continua con questa cosa. In realtà il disco è molto diverso dal precedente, perché nel precedente c'era tantissima arpa, che è il suo strumento principale di elezione in qualche modo. Invece questo disco lei si è concentrata di più a suonare i sintetizzatori modulari, che sono stati accordati alla frequenza 432 Hertz, dei 432 Hertz. Da lì mi sono molto incuriosita a vedere un po', perché leggevo frequenza mistica, quindi a un certo punto ho cercato di capire in quale senso. Vabbè, senza che vi volevo solo mettere la pulce, senza che vi racconto tutta la storia, la maggior parte della musica che ascoltiamo è sulla frequenza dei 440 Hertz, che è quella dell'ottava centrale del pianoforte, che è il quarto praticamente, infatti viene chiamato A4, e quindi questa è una frequenza più bassa, nel senso gli hertz misurano le vibrazioni al secondo, quell'A vibra 440 volte, questo La, che resta comunque nella frequenza dell'A, vibra 432 volte. Trovate tantissime cose su internet che raccontano che questa frequenza si accorda di più a un movimento della Terra, alle vibrazioni. Effettivamente, se si ascolta il disco in cuffia, ci sono anche tanti musicisti che suonano i pezzi accordati prima in 4.40 e in 4.32 per far notare qual è la differenza. Ovviamente bisogna avere un orecchio molto allenato, e lì per lì non ci fai caso, però c'è una cassa di vibrazione diversa, non migliore o peggiore, diversa, e quindi dice che stimola ovviamente il rilassamento, il rilascio delle tossine, insomma la meditazione. Non mi guarda così. No, e quindi c'è tutto, è curativa questa. A proposito sempre del progetto che abbiamo in mente, quindi in teoria è curativa, e lei ha voluto suonare insomma questo disco accordando i sintetizzatori al 432. Secondo me, se vi mettete le cuffie, ve lo mettete, poi sperimentate se funziona. Secondo me sì, se vi calma, oppure potete provarlo, che ne so, la prova del 9 sarebbe metterlo durante, che ne so, un passaggio in macchina, esatto, a Roma per esempio, esatto, potrebbe esatto. Essere. Se scendete dalla macchina non vi siete e non avete ucciso nessuno, dannate, ecco, vuol dire che evidentemente esatto. Funziona. Prossimo pezzo, lei si chiama Alicia Joy, Dropping Keys. Still I can't clear my head. No, no, no. Joy Dropping Keys, tratto dall'album The Making of Silk, uscito per la First World Records il 13 settembre scorso. Alicia Joy, insomma, famosa in realtà, non so se da nostre parti, insomma, comunque abbastanza famosa con un collettivo hip hop di Melbourne, anzi di Narm, che sarebbe il diciamo il nome indigeno reale vero di Melbourne, che con il quale appunto ha avuto un grande successo negli scorsi anni, e insomma con questo album secondo me molto dici 3070, esatto, è la band di cui faceva parte, fa ancora parte in realtà, insomma questo è un progetto da solista con grande groove, come avete potuto sentire, insomma, in cui esplora soprattutto la parte R&B delle sue sonorità. Lei è una compositrice, una cantante, una pianista, una produttrice, sì è vero, una produttrice, quindi insomma sapete, noi se non fanno sette cose non ci piacciono. Molto molto bello questo disco. Di questo disco lei dice che parla, insomma, di una nuova comprensione del significato dell'amore. Anche leggendo adesso le sue parole mi veniva in mente che che questa potrebbe rientrare tra le famose canzoni che curano, o comunque la musica che cura, o che ha questa idea, insomma, di farlo, di poterlo fare per gli altri. Joy dice: il tipo di amore di cui scrive Bell Hooks, che vive nella poesia di Mary Oliver, Asif e nel sogno appassionato di un dipinto di Kurusai. Si tratta di un amore compassionevole che vive nella conversazione aperta, nell'ascolto profondo, nelle prime linee del movimento sociale, che non cercherebbe mai di soffocare la luce che è in te. Si tratta di accettare la nostra solitudine, l'impermanenza di tutte le cose, di voler comunque sempre dimostrare che hai sbagliato, di dire che capisco, che tutte le cose cambiano, che tutte le cose finiscono, che esiste il dolore, ma che amerò comunque. Mi sembra, mazza, mi sono tanto, però non so, sono riflessioni che personalmente condivido molto, e che credo che particolarmente in questo preciso momento storico, dove l'unica cosa che vediamo è un profondo odio e una grandissima dose di violenza, e soprattutto di odio, di cattiveria e di non umanità, penso che se non ci impegniamo a metterci insieme da quest'altra parte sarà molto dura venirne fuori. Lascio, niente, non aggiungo altro a quello che hai detto. In realtà è arrivato il momento di una rubrichetta che si svilupperà in due puntate qui a Likewise. Come abbiamo detto, la rubrichetta l'abbiamo chiamata "tutto quello che pensavi di non dover sapere invece dovevi, ma Likewise non te l'ha detto, quindi tocca a qualcun altro". Questo è il titolo, diciamo, della rubrichetta, perché giustamente Likewise non ascolta tutto, non segue tutto, non ce la fa, non ce la può fare, a volte anche non c'ha voglia, giustamente. No, poi alle volte subentrano anche i gusti, dai. E poi a volte anche non le capiamo alcune certo. Cose le capiamo con ritardo. Invece è bellissimo quando chi ci ascolta, o chi fa delle cose con noi, o comunque chi ha in comune con noi la passione per la musica e per i contenuti della musica, mandi dei contributi, come in questo caso. Io ho intitolato questa prima parte della puntata "Chaperone", l'ascesa di una pop star queer di cui evidentemente avevamo bisogno, e noi ve la facciamo ascoltare. Ciao, buonasera a tutte. Vorrei passare subito al punto. Il mio intento stasera è portare le ascoltatrici di Likewise a stimare, apprezzare e supportare un artista che non è esattamente il tipo di artista che passa su Likewise. Siccome sarà un po' lunga, vorrei anticipare due o tre cose. È la nuova pop star di quest'anno, supporta in tanti modi le piccole comunità queer, parla anche molto di salute mentale ed è l'unica artista americana con un seguito immenso che nomina la P-Word, la Palestina. Fosse anche soltanto al supermercato, probabilmente questo pezzo l'avete già sentito. It's fine, it's cool. Sono più di tre mesi forse che Donna Sonica ci chiede di fare questa cosa, perché sono più di tre mesi che la tormentiamo sulla portata enorme di Chaperone. Donna non ha, o non ancora almeno, ceduto sulla musica, però sicuramente ne ha compreso la rilevanza. E ho appena parlato al plurale perché avremmo dovuto essere in due qui, io e Rosy, compagna di trasferte europee, di concerti e infinite discussioni su musica, femminismi, lesbiche, gender. Rosy, che tra l'altro devo ringraziare perché è stata lei a giugno a dirmi: sai che questa Chaperone non è affatto male? Ed è questo che fanno anche le compagne di musica, suggeriscono i nuovi ascolti. Però tra ciacchi di entrambe, impegni non compatibili, non siamo riusciti a farlo insieme, e allora abbiamo convenuto sul non rimandare ulteriormente. It's a sexually explicit kind of love affair, and I cry. It's not fair. Credo sia importante dare delle coordinate biografiche, perché il contesto in cui è nata e cresciuta ha un peso decisivo su quello che poi è diventata. Chappell, userò qui quasi sempre il nome che ha scelto per il suo progetto, nasce 26 anni fa in Missouri e cresce in un paesello di 6.500 persone. Stiamo parlando di piena Bible Belt, un Midwest super conservatore, super repubblicano, ultra cristiano, un piccolo mondo rurale in cui l'omosessualità è abominio, è offesa a Dio, è un paese in cui vige la pena di morte, l'aborto illegale, ci sono leggi anti-trans, anti-drag queen,

persona. Ne parleremo ancora nella prossima puntata con il secondo episodio di questo contributo. Insomma, ringraziamo Livia e invitiamo tutte voi che magari avete una passione, un appassionamento per un artista che è passata o solo è passata di sfuggita, non è passata mai da queste parti, di provare a raccontarci qualcosa anche voi. Quinto pezzo di oggi, Being Dead, Blanket Over My Bone. Blanket of My Bone, il singolo che abbiamo tratto anche in questo caso dal secondo album in studio di questo trio texano, uscito il 27 settembre scorso per la Bayonet Records. Che dire, è una band che non si prende affatto sul serio, no. Quindi sia nei testi, sia nel modo di suonare, sia diciamo nelle varie influenze che entrano nelle loro composizioni, devo dire che sono gioiosi, divertenti spensierati in realtà, no, spensierati, no. Però come ti arriva è così, insomma, almeno la mia sensazione, il mio mi lasciano così fondamentalmente. Una band che fa pensare a Neutral Milk Hotel, insomma quel genere là, veramente il mio tormentone questo album della settimana, quindi grande piacere ascoltare Anche loro erano passati da Likewise con il loro debutto When Horses Would Run, non so se ve li ricordate, sempre con anche lì un pezzo molto, molto strano, molto particolare. D'altra parte non si sa se loro sono nati da un nuovo gigante, da un nuovo gigante lasciato in un cratere meteoritico, oppure sono sotto copertura sulla Terra da un universo alieno. Diciamo che su internet girano varie svariate leggende, probabilmente alimentate da loro stessi, da Falcon Beach e Schmuffy, che sono i nomi, esatto, che sono date diciamo il nucleo centrale della band, che è diventato adesso un trio credo abbastanza stabile, perché si è unita la bassista live a fare i concerti, Nicole Roman Johnston, che poi in realtà è rimasta, ha coscritto dei pezzi di questo nuovo disco, ha registrato i bassi sull'album, quindi mi sa che sono diventati un trio, ce l'abbiamo infilata, insomma. Anche loro sono in giro da un po' di anni, da 7-8 anni, sì, credo, insomma, anni. Quindi e il fatto, cioè ricordate, il fatto che ci si metta un po' di anni a pubblicare i dischi non è perché non si hanno i pezzi, è perché è faticoso registrare in studio e avere i soldi per poterlo fare. Diciamo la seconda, probabilmente anche avere quel credito per poterlo fare, credito anche nel senso qualcuno che crede in te in qualche modo, che ti dà una mano a produrre eccetera, anche se molto spesso, poi lo sappiamo, ci sono tante autoproduzioni, è vero che ci sono tante etichette piccole, poi nascono i problemi di distribuzione eccetera eccetera eccetera, quindi è molto lunga. Paradossalmente sembra più facile, ma in realtà è più lunga. Sono le 19:50, come sempre lunga Likewise, sempre allungata verso la fine. Note cose e città sono già dall'altra parte del vetro, fanno anche un po' del bullismo verso nei nostri confronti, ma noi siamo superiori, quindi non risponderemo e poi ci vendicheremo durante la loro trasmissione. Esatto, poi ci vendicheremo. È tutto ok. Miss prossimo Canina. Pezzo, sì, Black Britney. Broke bread with the devil. She asked for a rock, she got a pebble. My daddy, he a gang member. I haven't seen that cunt since, I can't remember. He don't call, he don't even email. He's got his ass locked up in state jail. Government said I would fail, but still I prevail. But still I prevail. But still I prevail. I'm a deadly bitch, a Black Britney Spears. I'm a deadly bitch, a Black Britney Spears. And I'ma tell them what they wanna hear. Downshift third gear. Downshift third gear. Downshift third gear. I'm a back chatter, a hoe smacker, a brain packer, a hardbacker. I'm a pig hater, death to invader. And all the land takers and all the treaty breakers and all the dictators and all manipulators. What did she say your name was? I'm a deadly bitch, a Black Britney Spears. Well, I'm a deadly bitch, a Black Britney Spears. And I'ma tell them what they wanna hear. Downshift third gear. Downshift third gear. Downshift third gear. They say, Miss Kim and Nike, you are very loud. Very loud, very, very loud. They say, Miss Kim and that you are very loud. Well, this is war not made, and now I'm fresh out the cave, and I'm packing resilience, and this is nothing but brilliance. Call it superior genes, I'm a goddamn machine. But they be filling their mouths, and I'm that bitch from the south, and I'm the threat to the rest. I work hard, invest, I'm not lucky, I'm blessed. Calling fucking obsessed, make you run out of breath. Say it with your chest. I'm a deadly bitch, a Black Britney Spears. Well, I'm a deadly bitch, a Black Britney Spears. And I'ma tell them what they wanna hear. Downshift third gear. Downshift third gear. Downshift third gear. Black Britney, il pezzo di Miss Canina, che è tratto dal EP di debutto che si intitola appunto Canina, uscito lo scorso 20 settembre per la Soul Has No Tempo. Viene dalla Tasmania, anzi Utrovita, è insomma nella sua... A proposito di nomi giusti e non colonialisti, è una diciamo orgogliosa, come si definisce spesso quando comincia i live, Yota Yota, Jaja Wurung, Calcutta, Katungu e Yirendali Woman, una donna che ha discendenze di queste popolazioni aborigine della Tasmania, appunto originale della Tasmania, e come annuncia, per esempio, io ho visto un live in cui iniziava con questo pezzo e annunciava con una maglietta, tra l'altro ACAB, fantastica, in cui diceva: questa terra è sempre stata, era e sempre sarà la terra aborigena. Questa canzone si intitola Black Britney ed è un vaffanculo al patriarcato. Quindi a posto, no, infatti, che dobbiamo dire? Poi c'è un'altra canzone che tipo comincia: morte all'invasore, a tutti i rapitori di terra, a tutti gli infrattori di trattati, a tutti i dittatori, a tutti i manipolatori. Quindi fatevi un giro in questo EP, Canina si chiama, e siamo super felici di averla incontrata, ascoltata e passata qui a Likewise. Chiudiamo con questo pezzone? Dai, sono le 19.54, sì, chiudiamo, così proviamo a chiudere più o meno puntuali, e avremo un ultimo pezzo, ma le Come Girl Hate le abbiamo sentite con i dischi precedenti, è uscito un nuovo disco, ve lo faremo comunque ascoltare, non mancheremo. Ma intanto ci ascoltiamo Rita Páez e El Cervatillo. Batiglio. Del asfalto preside un camino de tierra. Encina y pino seco, nidos de aves, de aves. Mi abeja en lo alto del valle viven zorros, viven bestias, pero aquel cervatillo andaba buscando, andaba perdido. ¿Qué será de su suerte? ¿Qué será de la mía? Él me dijo gritando en plena despedida: voy camino al camino, no hay parada, no hay destino. Siempre que hay que comer, se harán caminos al recorrer. Y ese cervatillo que me he cruzado por la carretera, con su morro fino y cuerpo ágil hacia el mar brincando va. ¿Qué es lo que cabe pensar? Y alma que va a ningún lugar. Querer crecer y vagar como alma libre alguna vez. Y andaba perdido. ¿Qué será de su suerte? que hay que comer. Y en el camino sin recorrer. Y ese cervatillo que me he cruzado por la carretera, con su morro fino y cuerpo ágil, hacia el mar brincando va. ¿Qué es lo que cabe pensar? Y el mar que va a ningún lugar. Quiere crecer y vagar como alma libre alguna vez. De camino al camino. E questa era la voce, il trombone e insomma la composizione e tutto il resto di questa bravissima musicista catalana. Lei si chiama Rita Páez. Il Servatillo era il titolo del pezzo che avete ascoltato, tratto dall'album De Camino al Camino, che è il suo terzo album, uscito quarto, per una major forse. Che non vi diremo. Canta in inglese, spagnolo e portoghese. Credo sia distribuito, perché esce che da questa edizione, quindi potrebbe avere sì la distribuzione sulla sì, perché in etichetta. Realtà credo che sia diciamo prodotto da loro esatto. In una diciamo una figlia più piccola, ma in realtà sempre la andiamo a parare. Canta in inglese, spagnolo e portoghese, accompagnata da in questo particolarmente in questo album da una folta schiera di musiciste, come si è potuto sentire direi. Come si è potuto sentire infatti, tra cui anche la madre alla chitarra. La madre è Elizabeth Roma, che è una chitarrista classica appassionata di musica latinx, che ha appunto accompagnato in questo progetto la figlia anche live. Quindi insomma, se andate a cercare dei video la vedrete, è bellissima, fantastica. E anche in altri progetti musicali, in particolare c'è un album in cui insieme ripercorrono brani celebri di cantanti che ne so, come Mercedes Sosa, insomma, che hanno fatto la storia del canto latinx. Sì, perché le sue prime produzioni che sono uscite erano tutte cover in realtà, cioè poi cover detto così sembra, invece erano tutte riduttivo, non lo è. Esatto, perché erano canzoni appunto di tutta la tradizione latina, più cioè a partire dal Brasile fino a su, insomma Argentina, e pensa che l'altra chitarra Messico. Della band è il marito, cioè il compagno diciamo, quindi no, il padre, quindi una chitarra è la mamma e l'altra è il compagno, quindi insomma bella base. Ma lei è proprio figlia d'arte comunque, sì, esatto, perché erano ecco. Tutte e due esatto musicisti, o comunque hanno a che fare con la musica. E ringraziamo sempre NPR, il Tiny Desk, per farci scoprire cose che magari appunto tra le tante che ascoltiamo non becchiamo subito. Invece abbiamo visto il breve live sul Tiny Desk, abbiamo detto no vabbè, ma lei subito. Se vi piace twice. Questa sì commistione tra jazz e sonorità più latine, e allora niente, dovete ascoltare questo album perché è veramente molto ben fatto. E adesso di sottofondo le Wild Wild Women, che ci dicono che sono le 20:03, che questa è Radio Onda Rossa sugli 87.9 in modulazione di frequenza, che la puntata numero 93 di Likewise giunge al termine. Non so. E quindi niente, ciao. Quindi niente, la ciao. Prossima settimana sarà la 94esima, ci sarà anche la fortunata seconda parte. Fortunata voi che l'avete sentita in diretta, perché il podcast arriverà più o meno, chissà, brevemente. No, vi lasciamo così, con questo dubbio, con questa incertezza, però, almeno sicuramente temporale, non insomma non no. Con di contenuto, perché a un certo punto comparirà. E quindi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Radio Onda Rossa prosegue con la serata di musica, dopo di noi Note, Cose, Città, poi Semilla, Musica dal Mondo, poi Morfire. Yes. Non ho dimenticato nessuno, incredibile. È stato l'ascolto di Radio Onda Rossa, buona serata a tutti. Ciao. Like I put it, but this ride ain't amusement. End of the date, now it's time for the bill. Pockets full of cash and looks that kill. Girl, I'm sure you split that shit. Wait, did the waiter just ask him my pin? Okay. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay.